venire la forza a prendere. Attenzione, Brecco. Hola, Brecco, canale 10. Mandato su un troppo. Perché non lo vedi? Sono un stesso canale 10. Forza, grazie, grazie. Forza, grazie, grazie. Uscendo un bel male. Sì, pure frequenza. Buttaci tutto. Ecco.